al canale 10, c'è qualcuno. Binario 10, cambio. Attenzione 10, c'è qualcuno. Ciao Gianni. Non mi avevi riconosciuto? Ah, scusa, aspetta un attimo. E c'avevo il pedale spento. Vabbè, e allora che si dice? C'è tutta la fischia. A fischi? Sì, stai in esca. Risolto. Con questi esperimenti dubbo. Ma già. E fai un passaggio lungo. Ah, vai, sto facendo bene. Forse quel baracchino senza filtri, buh, adesso. Adesso sembra che stia uscendo bene. Poco fa stavi innescato. Ma io, vabbè, non posso stare, che c'ho la nipotina. Devo giocare con la nipotina. Cava, cava. E comunque, con questi esperimenti, vedi? Ti danno problemi ogni tanto. No, già so io cos'è. Cos'è? Le connessioni volanti sono, che lo stavo provando il microfono, l'MD1, capito? Ma sono andato contro Claudio prima e mi ha detto, boh, lascia così, andavo davanti al pedale, mi ha detto, lascia così. Ma siccome ci sono tutti i fili scoperti, no, del resto del connettore, capito, devo controllare tutto, ma adesso non ho tempo né niente, guarda, sono riuscito a fare una scappatina qui e basta. Va bene, adesso collegato il microfono. Potevi metterlo dall'inizio, il connettore giusto, fatto bene, e così non c'era problemi. Perché siccome è jack, adesso devo misurare gli altri, il resto dei fili, perché essendo jack, in un jack d'ingresso c'è solo il filo del microfono, i due fili del microfono, capito? Mentre gli altri si sono scoperti così, perché ripeto, stavo facendo una prova. Niente, adesso dopo faccio un attimo controllo cosa è successo in quei fili lì. Faccio David. No, ripeto, stavo andando bene, abbiamo fatto le prove, le cose con Claudio, le registrazioni, dai. Chiappa chiappa. Oh lui, ma dai 5 minuti che attacco l'altro apparecchio, che non me che non l'attacco. Veloce però già. Luca. Eia. Cava, come sta andando questo qua? Questo qui è il coso, l'Intec, quello stazione base. Muy bien, muy bien. Ma è il coso, quello che abbiamo in vendita? No, questo qua è l'Intec, l'altro è il Ruiz. Ah, sì, è vero. Quello che abbiamo messo in vendita esce bene lo stesso, se vuoi te lo faccio ascoltare, ma è una bomba. Si sente anche un bel bene. Ho cambiato perché con certi apparecchi c'è bisogno del filtro, capito? Se no non ti ascolto bene. Invece questo qua ti ascolto perfetto. Magari perché siamo vicini anche. Già. No, ma ti metto in macchina anche più basso. Siamo vicini. Una volta che metti questi già si appostano, muovi da appigliarlo, se no ogni volta devi già ma. Perdonatemi, ma io ti ascolto col Galaxy non bene, di più, di più. Ti lascio già, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao già. Ciao Claudio. Era riferito a Luca o a me? No, a te c'hai troppa ripetizione di eco, quasi non ti capisco. E in effetti c'è la rotta e la mossa, guarda adesso. Adesso va benissimo. No, Luca, è perché tu magari ascolti col baracchino, ma io sto ascoltando col Galaxy, è favolosa la modulazione. Lo so Claudio, ma questo apparecchio qua, anche se sento praticamente quegli apparecchi modificati, devo mettere il filtro, perché se no li sento male. Mentre invece gli altri apparecchi non succede così, questo qua è particolare, capito? Già lo so, è così, c'è niente da fare. No, va bene Luca, caspita, ottima modulazione. Mi devo lasciare, dai che c'ho la nipotina. Gianni, vai da casa di Claudio, prenditi un 14 intanto l'unica 2 e così si è a posto, ciao. Se non me la vuole dare. È monello, Aspetta Gianni, aspetta, fammi vedere, sono una fase di decisione, perché intanto 2 non li tengo, se no faccio veramente ne ho già 3 di K e basta così. Però voglio fare cambio con un 757 GC2 che l'ho avuto e va bene, molto bello anche esteticamente. Se non va in porto ti avviso, vai, aspetta, non fare stronzate perché in giro c'è Mondezza, almeno sei sicuro che c'è una radio buona. Qua sogno, qua sogno. Questo qui non l'accendo mai, mi hanno detto che la radio è bella, va bene, va bene. Non l'accendo mai questo Intec. Eppure va bene, c'ha tutto, c'ha il distorsore, c'ha lo smitter che funziona bene, e forse è l'unico che c'ha lo smitter che funziona bene, perché il 2009 già dalla fabbrica sono un po' riminzi. Il Galaxy andava bene ma non ce l'ho più, quindi questo qui è l'unico che è rimasto che segna veramente il segnale che c'ha la persona. E io, però se vuoi lo regoliamo, perché se hai troppa ripetizione diamo appena più di amplificazione e abbassi appena appena la ripetizione dell'eco già. Guarda, così è abbassata quasi tra lo 0 e l'1. Mettila l'1 a 1 a vedere. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, questo Gianni lo trovo e con l'eco. Norduca, a 1 ricordati. E come segnale com'è? Un segnale sì, 9 più 10, ottimo segnale. K, e questo qui vabbè. Arriva bassino perché ha pochi watt, capito? Non l'ho mai toccato, ho detto sicuramente chi me l'ha venduto l'ha abbassato di watt, o non lo so se è perché è omologato, c'ha 3 watt e mezzo, capito? Quasi 4 watt, ma non c'è gli altri 4 watt, 3 e mezzo ne ha. E quindi ha bisogno sempre di un aiuto per riuscire bene. No, ma tu sei aiutato adesso? K. Va bene, ottimo per la truppa già. No, aspetta, affanculo, cioè vorrei finire in chiuso, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,20, sì, la mazza, 10 dB meno ti traforato. Perché ho tolto le manopole, le ho tutte pulite, lavate, rimesse, perché c'era un po' di polvere in mezzo. E con la traccia non viene bene. Le ho tutte tolte e ho lasciato il refrigerante chiuso. Adesso sì, 9,20 agganciato già, va bene. E guarda così, 1, 2, 3, 4, questo qui è con 3 watt e mezzo. 9,5. E già va bene lo stesso, che ce ne frega. Questo è bello, è tutto blu, è ben fatto, dai, l'abbiamo fatto con Luca, abbiamo messo il led blu in tutto l'apparecchio, praticamente c'è tutta la fissata, illumina sia gli strumenti che lo strumento dove segna il canale e la frequenza, è tutto completo, c'è anche la frequenza, tutto c'è. Ah, io, prendete Palacchini che qua avevo memorizzato il canale del QRM. Il canale del QRM. Eia, avevo memorizzato quel canale lì io. Voi entrate voi e fate bailarne. Effettivamente c'è un po' di QRM in questo periodo. Ciao Tino, buonasera. Sì, l'ho vista la foto già, è molto bella quella radio, lasciala stare. E beh, muscolo, rientrateci. Adesso mi sono entrato a casa, adesso voglia. Adesso mi faccio un bagnetto in piscina con Nicolas e poi mi faccio la doccia perché ho preso troppo caldo oggi. Ci vieni domani mattina a Monterraggio? No, domani mattina mi prendo il camper dopo che faccio la spesa e me ne vado a Sabalurghe. Gappa, no, io vado con Walter a Monterraggio, domani diamo una pulita nel gabbiotto del ponte, della reserva, e fa schifo. Metto la medicina nuova per i topi, do una pulita, mettiamo l'alimentatore nuovo, poi ci prendiamo caffè e ce ne scendiamo. Ma per dirti la verità dovevo chiamare stasera perché devo prendere un po' seca, devo fargli un lavoretto a terra sua e una casa del cognato, ma c'è troppo caldo. Rimandiamo, aspettiamo un pochino quando rinfresco un pochino perché non ce la faccio più, sto andando in ebollizione. Sì, lascia perdere, abbiamo preso un'immaginata, rimani con Fabrizio, ma abbiamo iniziato alle 7:30, alle 8, va. Meno male fino alle 10:30, una cosa del genere, abbiamo finito in fretta. Ha iniziato questo caldo, va. Ce ne siamo scesi in garage a Sant'Orsola. Ma vedo un cazzo, la via gita, io poi cammisti che sto schiumando, veramente, no, non se ne può più con questo cazzo di caldo. Vai Gianni. E dopo ci lamentiamo perché piove e non sappiamo manco noi cosa vogliamo, vabbè dai. A settembre dovrebbe essere. se il figlio d'un buono per andare al mare se fa caldo, perché c'è poca gente, se può andare anche con la canna da pesca a pescare, a chi non viene giù. A settembre, non avevamo detto domani, siamo a settembre. Ciao, già. No, vabbè, io ho un amico e collega di lavoro già, che è appassionatissimo della pesca, no? E ha detto, ma possiamo andare a pescare, ma perché no? Ecco, ha preso, fate che vabbè, è appassionato di tunni, li ha presi da terra, ne ha preso già 4. E poi roba grossa tipo, come posso dire, Sara, che quelle. Io non pesco una cosa conosco, sta molto questa roba qua. E ti portano, basta andare, non c'è problema, io ti dico quello che devo fare. E ci stiamo organizzando, ho detto no, fermo un attimino, vado per pubblicarlo. Adesso quando rinfrescano qua usciamo, andiamo e ci facciamo una passata. Se tu da terra, ma allora è andato in mare di Furi, cantatore da terra è un po' difficile, solitamente si prendono a traina, così dalla barca, la barca. A terra non l'avevo mai sentito, che sì, qualche denti c'è sì, però tu ne proprio no. Guarda, la stessa domanda che ho fatto io, non è che ha fatto dire lì, non ci credi, ma ho fatto subito le fotografie con lui, col tonno, so anche dove andare. Ma è mare di Furi? Sì, beh, giustamente. Ma è proprio una cosa che l'ho pensato per una settimana buona, che l'ho mangiato per una settimana buona, poi sono andato e l'ho preso. Ma è conosciuto questo qua, è stato d'accordo. Lavando con noi già un annetto, lavando con noi. E mi fa vedere queste fotografie spaventose. Se esce in barca poi la si accerta, ma una foto di lucido che ha fatto di barca, ha riempito il mano della barca. Una tubata, a parte che non è neanche bugiardo, perché c'è gente che lo conosce, mi sono informato, ma quello sono bene. Ma si appassiona in questo modo qua, si documenta. No, ti ragione, non stai dicendo che è bugiardo, per carità, però io ho sempre sentito che tu dici prendo una traina, e per quello vabbè farà un tipo di pesca particolare, non lo so, sicuramente userà il vivo per prendere. Non me ne chiedere perché non lo so, io sono proprio un veterano. Solitamente usano l'aguglia per prendere queste cose qua, questi predatori, capito? L'aguglia, perché anche se è morta l'aguglia si muove, capito? Quindi è un pesce che attira. E vabbè, comunque, se ben venga, se è predatore da terra è bravo e c'ha il fatto suo. Dai, io non ho mai preso cose così grosse, per carità, non mi ritengo a quei livelli, però qualche cosa di bello l'ho presa, ma proprio tonni, avanti qua. Gappa, aspetta che avevo lasciato la potenza, sì, sei leggermente sciattiro. Io, proviamo. Forse come stava scaldando, l'ho messo in moto adesso. Cava gaba. Sì, adesso va bene. Evidentemente di fuori accordo, va bene. No, sai quando capita già, adesso va bene, d'accordo. Capita quando magari fai i passaggi più lunghi, lui cerca di spingere, e io non sono mandrone a accordare. La rottura di palla è quello. No, va bene, non toccare niente. Va bene. Dai raga, io vado fuori che mi stavo facendo qualche cosettina, vabbè, ho lavato la macchina di Daria, adesso do una sistematina fuori e mi innaffio con le due piante che ci sono, dai, visto che si chiede, visto che è legittima. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Cava. Mattino, 44 stai usando? No, quello è parcheggiato, poi ho 4,50, io non ce l'ho 4,40. Ah, cazzo. E il 4,40 cosa c'ha? È sempre a posto? Sì, ma non ce l'ho più il 4,40, io ho versato il 4,40 e mi ho comprato il 4,50. Ah ecco, no, pensavo parcheggiato, nel senso che ce l'avevi da una parte. No, non mi interessa avere tante radio, poche ma valide. E ma fai bene, in effetti poi tutte fanno la stessa cosa e a meno che sei un collezionista, cose così, ma anche io ne ho troppe, ho 2, 3, 4, 5 e adesso non lo so se ne prenderò un'altra, ma non sono sicuro, dai. Ce ne ho tutte funzionanti, tutte vanno bene, il Galaxy purtroppo è volato e adesso c'ho le altre, dai. Adesso sto usando queste, questo qua è l'Inter, che è stazione base. Ma molto bene, già. Ma ne ho altre, ne ho 5 in tutto, ma sono buttate lì, anzi no, sì, sono buttate lì giù nella vetrinetta, che diciamo che anche sono tappate, stanno prendendo un po' di polvere, quindi ogni tanto dovrei spolverarle e basta, niente di che, utilizzo sempre questo e quell'altro, il link addirittura ce l'ho collegato, ma non lo sto usando, si può immaginare, è giusto perché c'è un cavo in più e l'ho collegato, ecco. E una l'ho messa in macchina, ma me ne sono quasi pentito perché tanto non la uso mai. Poi adesso con questo problema alla gamba sto uscendo ben poco, lo sto usando la macchina proprio quando mi occorre strettamente per cose necessarie, sennò non eseguo la tenda. Ma guarda, io quello del camper lo conosci benissimo perché mi ha dato la mascherina, è sempre il solito, però effettivamente l'ultima volta mi hai sentito anche tu, dopo non mi ricordo neanche per capoeiro, stavo andando a Urbia, dopo un po' insomma ho perso un po' a tutti, quindi in viaggio non è che incontri chissà chi, capito? Ma eri aiutato l'altro giorno? Sì, avevo il Falcon 550, ebbene, sennò già non prende come da vendere. E infatti dicevo, questa è già una zona lontana e lo sento ancora bene, per quello che mi stavo meravigliando. Ma vabbè, comunque già serve in camper, dai, per qualsiasi cosa può servire. E poi anche con gli altri camperisti, magari se parlano ti fai una modulata. Di solito lo mettono chi va in carovana, proprio non lo so se tu vai da solo, se sei fa da te o se sei di quelli che si aggregano agli altri in carovana, ma solitamente quelli che vanno in carovana c'hanno tutti l'apparato. Sì, e non lo utilizza nessuno, lascia perdere. No, non costo parecchio, io sono già 2 anni che esco così, però non ho... La maggior parte si utilizzano i telefonini ormai, una volta che sei proprio a due bassi, allora si parla, accende il CB e ok, però solitamente non su strada non trovi nessuno. Vabbè, andava, sì. Perché la passione, poi io a volte quando vado a Alghero, a Fertilio, a cosa, accompagnare mia figlia, perché va e viene da Bologna, quindi quando ritorna e quando la devo accompagnare lo attacco, è l'unico momento, è quello lì, poi in città non lo uso, anche perché con quell'antennone, già una volta la sala d'Alghero mi si è staccata la magnetica e non ce la posso fermarmi, ho dovuto camminare con l'antenna a striscia e striscia in terra. No, io ce l'ho sopra il camper, quindi vabbè, alberi ne tocco abbastanza, però già è bella massiccia. No, l'altro giorno sono fatto, allora sono partito da qua e sono andato a Urbia. Da Urbia abbiamo fatto il compleanno di Nicolas, mio figlio, quindi ho fatto un regalo un po' particolare. E siamo andati alla rotta panoramica, siamo andati all'Acquasin, ci abbiamo passato un giorno lì all'Acquasin, dopo l'indomani siamo andati, l'indomani la sera, perché ho finito alle 6:30 all'Acquasin, e poi allora ci incamminiamo e siamo andati nuovamente a Urbia, ho comprato una torta, da lì siamo andati a Pazzona, mi piaceva il posto, ma sono andato a Cucerona, c'era un casino, ma sono andato all'Argentiera. Sera, poi ho fatto la giornata lì e non sono andato, e una bella cosa, dai. Insomma, hai fatto il nomade da un punto all'altro, e vabbè, almeno hai visto più posti, dai. È lì che quando sono andato verso Urbia potevi andare a San Teodoro, quella zona lì che ci sono delle spiagge fenomenali. Sì, ma io sono già un po' per questo genere, ci vanno così, tanto loro ci vanno così, no, insomma, quello che mi dico, faccio spesso e volentieri, non mi pesano, perché poi una volta che sei lì, ti fermi un po' da una parte, un po' dall'altra, qualche peggio qua, qualche aria sopra, insomma. Già appena girato, per quello ho già, diciamo la verità, è una spesa troppo, se ce l'hai dovete utilizzare, se per lasciarlo qua solo pagarlo e guardarlo non è bello. No, ma infatti, poi quello che hai preso com'è, nuovo, oddio, oppure di quelli usati? No, è nuovo, ma non è nuovo, mi spendo 50.000 euro per un camper nuovo, però più alla metà. Comunque va bene come meccanica, come tu? Grazie a Dio, sì, diciamo che sì, ho preso un semi nuovo, quindi non ho preso Mondetta, perché tanto prendere Mondetta si intende metterci le mani sopra e fare sempre la meccanica, quindi ho valutato un pochino e insomma per una cosa, non so, tipusi, un 7,30 è grande, grande, troppo grande, forse è quello, però proprio adesso ce l'abbiamo così, quando magari qualche fisio inizierà a mollarmi, allora vuol dire che ce lo cambieremo. Ma infatti adesso che ci sono i ragazzi che sono ancora piccoli, diciamo, dai, non sono grandi ancora, già va bene con tutta la famiglia andare in giro e girare, è già una cosa bella, però le spese, come hai detto tu, sono tante. Io avevo due macchine, la moto, eppure un Lugan per vivere, infatti adesso ho tolto un po' di roba, le moto me le sono vendute e mi è rimasta la macchina, boh, basta, la moto tanto non le voglio più, con tutti i dolori che ho alla gamba non ci vado più in moto. Guarda, io sinceramente l'ho presa in dopo, ho detto vaffanculo i soldi, è stato un prezzaria a conservare, meglio che mi ricordo, sono i miei figli, la mia famiglia, ci stiamo divertendo, insomma, qualche cosina da parte c'è, quindi che cazzo me ne fotte, non devo stare lì a lavorare per quei cosa, da poi mi dicevo, ho solo lavorato, no, non va bene. Ma infatti bisogna godersela la vita, tante una metti. E una, se non te la godi quando puoi, poi cominciano gli acciacchi, questo e quell'altro, non è più gana di far nulla. È meglio che quando ancora stai bene te la godi. Io ho la passione della pesca, non ci posso andare perché ho questa gamba che adesso sicuramente mi deve visitare un'equipe, sono addolori da non poter stare, nemmeno la notte dormo. Mi devono visitare, secondo come va mi devo operare, capito? E se non risolvo questo problema manco a pescare posso più andare. A me piaceva molto pescare perché mi rilassava, poi col tipo di lavoro che facevo che era stressante, lì mi rilassavo proprio, c'era silenzio, stavo bene, cavolo, proprio col rumore del mare, guarda, era una cosa a me indescrivibile, mi piaceva troppo. E non ci sto più andando perché per questo cavolo di gamba che... purtroppo l'altra me l'hanno operata, mi hanno messo la protesi, adesso dovranno mettermela anche in questa perché con tipo di lavoro che ho fatto tirando pedane, e allora se la spalle elettrici non ce n'erano, se tiravi tutti a mano le pedane facendo sforzi, quello e quell'altro, mi sono rovinato. Un casino, no, non sapevo che ti ho messo la... mi dispiace, la cosa è che poi vabbè, se vai a risolvere giustamente... già, sì, ci dobbiamo pregare la salute, perché effettivamente come hai detto poi diventiamo grandi e non è voler fare un cacchio. Io mi sto accorgendo tutt'oggi quando mio figlio mi dice dai facciamoci tiri a pallone, dai, facciamoci un bagno in piscina, tra l'altro dell'altra, dopo il lavoro sembra così, ma un po' di stanchezza c'è, ma vabbè, già è tutto bello, dai. Guarda, me lo ricordo io quando tornavo dal lavoro stressato e mio figlio, papà giochiamo, va. Senza averne voglia ci giocavo, ma proprio per farlo contento, però ti dico la verità, la stanchezza era tanta, eppure vabbè, per i figli lo fai, dai, no? Non cerchi sempre di assecondarli quello che vogliono fare. Giusto che sia così. Quanti anni ha ora Marco? Marco ne ha 22 adesso. Pian piano. Ricordo era piccolino e parlava da barattino, ma. Marco sta per laurearsi. Sì, bene. Deve dare finito. Manuela, sei già laureata, quindi grazie a Dio io sono stato fortunato con i figli. Sì, vabbè. Guarda, tanto al giorno d'oggi sono già laureato, diplomato, o quant'altro, no, non fai nulla. Io l'ho anche detto, prima lavorare con babbo, lavorare, ma di faccia a perdere. E vabbè. Sì, diciamo che anche Manuela è laureata e ci ha preso anche la specialistica, è lì a Bologna però a lavorare, lavora in un centro dove tengono bambini disadattati, ragazze madri, eccetera, eccetera, perché lì praticamente ha fatto scienze dell'educazione e adesso sta anche insegnando, capito? Ah, bene, vabbè. Andare, me Gianni, io vado, mi faccio una bella doccia adesso, dai, tanto ancora non è rientrato, Nico, pensavo che veniva presto, poi faccio il bagno in piscina, ma non c'è più grande. È uscito con la madre a prendere già iniziare a prendere qualcosa per la scuola, perché bisogna già iniziare già adesso, sono poi all'ultimo, non trovi niente, infatti io ho dato trovare più di quello che serve, così almeno. Evitiamo di stare ultimo, diciamo. Quella è un'altra spesa. Mi ricordo quando c'era la mia che 500 euro spendevo. Ma tu ci sei passato prima di me, quindi non ti devo insegnare niente, è così, è veramente così. Vabbè, l'importante è che poi ti diano soddisfazione con l'andare del tempo. Ah, fatto col cuore, sinceramente, le soddisfazioni me le hanno date, quindi sono contento che sia così. No, ma dico, sono spese e poi adesso stanno aumentando tutte le cose, fate quello. Guarda, già, io sinceramente parlando, non per dirti quello che spendo, ma voglio dire, se nei primi giorni delle spinte mi facevo un carrello di spesa, che spendevo 60 euro, c'era un carrello di spesa, oggi non ti basta più del doppio. Sì, ma è così, lo so, perché la spesa la faccio io a casa, quindi ti puoi immaginare se lo so. E io c'ho un discount qua vicino a casa, ad Italy, e io mi servo lì, mi trovo bene, i prodotti sono buoni, la frutta è buona, perché è roba di Terralba, di Arborea, quindi è tutta roba sana. E compro lì, capito, ce l'ho a due passi da casa, vado in macchina, mi carico bene la macchina, ogni volta sono 80-90 euro, cavolo. Compri due cose già sono 40 euro. Lo so, mio padre abita lì vicino a te, quindi anche lui va in quel negozio lì. No, io non ci vado lì, io vado o all'MD oppure lì a Coso, allo Spin, ma ho visto l'incremento dei prezzi fuori dal normale, poi non toccare pesce, certo, perché ho detto dammi tre pesci, tre latte, cazzo, vanno a guardare 47 euro, andare, vabbè, però ci abbiamo portato al mare e si apre le luci. Hai preso quelle nostrane? Sì, quelle di Trentino, sono più buone. Ma dell'allevamento no, perché se sono nostrane ci posso stare, ma cavolo, se sono di quelle d'allevamento costano un bel. Sì, prima le orate le davano a due lire, cavolo, anche. Ma io non ne sto più prendendo di pesce, bisogna che ci vada al mercato a prenderlo, ma come sono non ne ho voglia. E pesce ne sto prendendo ben poco, come qualche cosa prendo di suffici di Findus, questa roba così, ma pesce sono un po' che non ne vedo. Sì, faccio qualche volta la pasta allo scoglio, questa roba qua, quindi un po' già lo integro, ma proprio pesce è pesce, no? No, vabbè, io lo prendo per il fine settimana, quindi ogni volta che vado il fine settimana le prendo, con le quattro orate le prendo, siamo in quattro, quindi una per una la prendiamo, la faccio a cartuccio e poi o faccio il fuoco oppure la cucino alla piastra. L'ultima volta invece l'ho fatto una bella, ma ne avevo voglia già, credi, una bella mangiata di pollo arrosto, cucinato sotto nelle rocce all'argentiera, perché dovevo il campo e non faceva a fare il fuoco, ma ti dirò, guarda, anche la voglia me l'ha tolto. E poi il pollo fatto così, arrosto con la legna, è tutto un altro sapore già. No, io il pollo già lo faccio spesso con le patate eccetera eccetera, arrosto così, ma in forno però, capito? È un altro sapore, anche se è buono lo stesso, però ha un altro sapore, il sapore del fuoco gli dà un sapore diverso. Non so, ma vabbè, io qua in campagna ho la possibilità che lo vanno in pane di fiaccia, non è quello il problema, però il mare è tutt'altra cosa. Va bene Gianni, dai, se coincide, niente, a più tardi, che con la famosa ci voglio togliere un po' la panchetta, così mi bevo una birretta e aspetto il bicchierino. Beh, ci sentiamo più tardi se coincida. Ehi, anzi, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Avanti se c'è qualcuno sul 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Sento Peppino, la trippa.